con la macchina, no? E se per cortesia poteva spegnere il motore, che stavano passando i ciclisti, capito? Che se non potevano respirarsi il fumo della macchina sua, ragazzi. E ha detto che non spegneva. Beh, sì, ho lasciato esempio di Zaietti. Quindi ti ho lasciato esempio. E un ciclista ha detto cosa? Fatti spegnere il motore, questo qua, e diglielo tu. Io non ti vedo mai da farla con nessuno, io glielo ho detto poi, quando viene qualche macchina della polizia, cosa del genere, lo faccio dire da loro. Non è che io ti ignorante, vedi? C'è la fada di San Gavino, si è messo, ho visto dove c'è lo spartitraffico di fronte alla cantoniera lì, questo qui si è messo con due ruote fuori della macchina e due ruote sopra lo spartitraffico, e la gente doveva per forza deviare la macchina e andare in mezzo alla strada per colpa sua. Gli ho detto scusi, ma un altro posto per fermarsi non ce l'aveva, no, io non mi sposto da qua, ma vede che la gente qua deve deviare, secondo me si deve spostare in mezzo alla strada quando può andare dritta tranquillamente. Niente, non si voleva spostare, alla fine gli ho chiamato i vigili e gli ha detto che c'era la macchina guasta, e io lo aiutiamo noi a spingere, la sposti subito, e ha fatto finta che la macchina era guasta, capito? Davvero, ignoranti. Sì, per potenti, se una canna c'è per il suo, e da poi va in baga. Ma, via. Così è già un problema. Quindi adesso Gianni, domani, dopodomani? No, domani rientro. Ah, anticipi, ma mi sembra che avevi detto sabato. No, venerdì, ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao Luca. No, domani Luca devo rientrare, domani. Ah, ecco, perché chi è che è entrato? Sta rincoglionendo il giacca, è la malattia, è malattiato per malattia, ma quanto hai poi, no? Sei arrivato, quindi adesso puoi anche approfittarne. Ciao Gianluca. Ciao Luca, ben entrato, ben sentito. Adesso puoi fumare, sì, così ti va già aumenta il sapore di un catarro. Guarda, c'è una cosa che fumavo io. Io dove c'è questo, a parte proprio la gola, la trachea, proprio tutto dentro, mamma mia, dolore, poi la tosse, no? Infatti io ho sentito puzza di sigaretta, ragazzi, mamma mia, era una cosa schifosa proprio, mamma mia. C'è una cosa che mi può fare un tiro, solo un tiro bastava. E lo dico che se non muoio là, non muoio più. Thank you. il fischio, mi ha chiamato. Hola, ok. Sento lì, qua, Claudio. Sì, è Gianluca che ti stava chiamando, non senti. Aspetta che sto accordando. Yeah. Beh, grazie, ci allontaniamo come canale, non so se ti disturba. Claudio. Vabbè, dai, stavo provando questa... Com'è questa modulazione, o Gianni? È tranquilla, là, non è male, ma è tranquilla, di quelle normali. Dai, queste qua sono da parlare così, che potete cronista, per parlare così. No, adesso siete bene, non è che si fa male, solo che è una modulazione normale. Sì, sì, una modulazione normale, Gianni, sì. Pagata. Vabbè, Roberto nulla, non risponde. Di Maroni, di Assucci, su, sono il legato dell'età. Quello che avevano già rapinato, che era la figa del rapinato. Sì. Il nuovo rapinato. Cigarette, cingombe, caramelle, gratte vinci, fa. E rapinimi. A rapina o hanno fatto il fusto? Rapina, come ha detto il tabacchino, loro hanno agito. Che coraggio, grazie. Bisogna stare attenti al giorno d'oggi. No, grazie, la gente non c'è più a testa, boh, non fosso. Allora, bisogna stare attenti al vero. C'è una cacciata, c'è finisce magari che negato, rigosi. Ma c'è anche una pistola e si trova in difficoltà di spara, fa cazzati. Infatti, quei ragazzini, capito, non sa cosa fanno. Ma quelli là, gli altri li avevamo messi in guardia, mi pare, no? Non mi ricordo, non lo so. Giallo, ci sei? Sì, non ti ricordi che erano entrati dentro il tabacchino, i carabinieri, in borghese? Come sono entrati loro, li hanno presi. Tenete vita già, c'è qualche su, dopo la chiesa. Ah, quello che rimane in angolo. Sì. Ah, io stavo pensando a quello lì, quello di Deita. Sempre Deita è quello lì, sì. Ma l'ho venduto già, c'è un altro adesso, qui dico. E quello non è anche lui il padrone, lui è un succio, da. C'era lui in cosa, in... come se fosse il padrone, ma non è lui il padrone. Ma Deita in gestione, c'è. Ma Deita non c'ha più nulla. Ha venduto, no? Lannica. Su progresso. Strano, è perché Deita guadagnava bene. Ma quando qua non ne hai più. Perché anche le macchinette. No, no, le macchinette, no, la giuglia. Questa è la tua macchina? Questa è invece la macchina adesso. Piano avanti, non c'è una frutta e verdura lì, sono sempre lì da macchi. Ah. Prendi un po', prima che prendi. Ragazzi. Paracchio. Questo caro c'è un pitbull. Beh. Sto a più, già, poveraccio. Non hai visto il cane che hanno liberato quei ragazzi? No, prova. Hai detto questo ragazzo a fare a spara, gli ha trovato questo cane incastrato sotto una roccia in un buco piccolo, ha visto solo la zampa che sbucava, ha perso la... si è abbassato, ha visto che c'era un cane incastrato dentro, è andato subito in paese a chiamare un amico per spostare le pietre, sono riusciti a spostarlo e l'hanno liberato. Ma lui, ma le cose, cane stava per qualcosa. Comunque c'è niente di maltratta ai cani, che voglia, io capisco che è una scuracciata perché ma fa determinate cose che non deve fare, tipo pisciare in terra o cagare in terra, o c'è quante di cose in casa, non riesce a toccare niente, e si dà una scuracciata, oppure mangiare la terra fuori, in strada, no, c'è niente di maltratta veramente, di maltratta. Chi era gli altri condannati, cazzo? Che l'altro la vuole la condanna? Sì. Noi a Arciso c'avevamo le guardie di Zuffi, ma adesso vabbè sono trasferiti, prima erano lì a Arciso. Hanno fatto una telefonata a questa ragazza dalla come si chiama quella zona? Piandanna, da Piandanna ha chiamato che ha sentito uno sparo e un grido di un cane. Siamo andati e cose, c'era un cane che l'hanno sparato in testa. Hanno sparato questo cane in testa, questa ragazza ha detto, ci ha chiamato, ha detto che ha visto chi era, dove era andato via, abitava anche lì vicino. L'abbiamo denunciato, adesso gli fanno il processo. Sono sto scemo, va, la bicicletta, va, sta facendo, va. Guarda, ma che scemo, va, uno stabile, va. Emboli, Salerno. Ha ragione, ma io ho tutti i rampati. Aspetta, lì che sto chiamando. Non so di buttarli, va. La stessa sta scemo. Sempre Vittorio Bromotti, vuol dire che sono al confine con l'outlet di Eboli, abbiamo passato anche un campo di barraghetta e alla mia sinistra invece abbiamo la discarica. Sono stato abbastanza piccolo. E poi con i soldi, fanno le strutture, spendono un po' di soldi e poi la Madonna non sono di buttarti. E cosa, oh, Luca? Devo essere sentato. Eia, Gianni. Ah, eia. No, Gianluca ti chiedeva, Luca, cosa succede? Gianluca. Eia, non avevo capito che cosa, di cosa stavi parlando, cosa era successo. Beh, sentivo. Quello lì stavi dicendo, sì. No, dico, non stavi, non vedi molto grande. Forse vale qualche 20 miliardi. Cazzo! C'è uno stato di 20 miliardi. E io vado. Ah, cosa? Dice Gianluca, c'è la notizia, guarda questa bicicletta, va. Ci sono un pazzo, guarda come salta le macchine. Oh già, chiedo cosa mi dovresti che mi risenti tu, come si chiama? Maofeng, UV5R? Sì. E la reazione di diversi tipi, eh? Sto guardando qui su internet. Com'è questa modulazione, Gianni, questa radio? Buona. Via. Oggi non mi conviene, ci ha fatto un pitbull piccolino, avrà un mesetto e mezzo. Pulito, nuovo, vai da bianco. Via. Sì, la ci ha fatto. Nuovo, nuovo. Di razza, è puro sangue, proprio l'ossigeno che va, bianco. Guarda che bello che era, una, bellissimo veramente, ma il momento la ci ha pagato, l'avevamo regalato, è stato un cane usì, ma bello me. Sì, ma lì ha controllato se c'è il microciclo, Sì, si è già controllato, non ha via. E allora glielo fa subito lui e basta. Sì, infatti andiamo a comprare le cose, domani lo porto al veterinario a fare il vaccino. Ha pagato, è stato fortunato, mi sa che l'ha messo, magari è fuggito dalla chirurgia. Ah, difficile che sia fuggito già, molto difficile. Perché, non mi ha detto un direttore a farlo, andava via in macchina. Come una volta ha trovato un pastore tedesco così piccolino, un mese e mezzo ci aveva, pensavi come io, faceva il tuo mestiere nelle ville dei Sali, si faceva antirapina, antisequestro, eccetera. Beh, l'ha allevato questo cane e faceva servizio insieme a lui, ogni notte si stava a fianco quando faceva il giro, tutto grande. Sì, dopo quando ti abitui, cioè che ti vuole vedere, vai da... troppo bello, E i cani poi sono... è meglio un cane amico che un amico cane. Certo. Vero. Oi. L'ha trovato, l'ha portato anche carabinieri. C'è fuori la denuncia del ritrovamento e non l'hanno mai trovato il proprietario, se l'ha tenuto lui. Che casino questi cani, che casino. Guarda, Monella. Beh, non è. Ah? Diglielo a Gianni che sei Monella, diglielo. Possiamo fare la pipì in terra. Qui si fa la pipì, tu muovi la legge. Sì, ma quello lì è un po' colpa tua, perché se tu lo porti a certi orari non le fa in terra. Già, non è il fatto che io lo porto. L'ho fatto il giornale, capito? Però molte volte fai gli splitti. Perché c'è un metro quadro di giornale in terra, circa. Cazzo, me l'ha fatto, la fa mettere il giornale, capito? Fa un po' sbaglio. Se dice, da 5 anni già, ma no, poi già comprendi. Già capisce, ma giù, che è usata. Bello lui, eh? Monella, sì, tu. Dì la mia che sei Monella. Ti picchio? Eh? Guarda, ma muoviti. Ci fa la pipì in terra? Sì o no, si fa. Vedi che si fa, sta guardando. Luca, il tuo la fa la pipì in terra. Quando è dipietoso, quando lo porti fuori, capito? Se magari lo porti in ritardo, allora, ma difficilmente, so che te lo fa capire. Beh, infatti perché ci sono gli orari, io ce l'ho avuto il cane, il mio mi chiamava, quando dovevo andare partivamo, mi scodinzolavo, mi portava anche i guinzagli, si metteva i guinzagli in bocca e me lo portava, io capivo già che voleva uscire. Questo si vuole dritto, in piedi, no? Come comincia con i zampi a carezzarti, no? non sono intelligenti i cani, guarda. Ma veramente, una cosa va da insomma, mi manca solo la baracura, secondo me. Il mio non era di razza, non era di razza perché è un cane che ho trovato a Ponte Romano, e praticamente stavo girando lì dove c'è il coso di Falchi, no, ho girato un po' dopo e vedo questo fatto fuori cotone bianco venendo verso il furgone e questo cagnolino, ho aperto la sportella e si è dato dentro, stava piovendo a dirotto, era tutto bagnato, ho preso l'asciugato e me l'ho lasciato dentro il furgone, poi come sono arrivato io l'ho messo in una scatoletta e me l'ho messo in macchina e me l'ho portato a casa e da lì l'ho allevato, l'ho fatto grande, tutto grande, insomma tu devi avere questo cane. Giocava con tutti i bambini, non lo faceva avvicinarsi agli altri cani, però quando c'erano bambini e altra gente era affettuoso con tutti. Luca? Sì, sto ascoltando, sto aprendo una, come si chiama? Bah, il programma. Sì. Sai cosa, molte volte capita, trovi un cane ti fa pena perché poi in questo periodo, no? Forse è estate, c'è caldo, va bene, ma in questo periodo c'è freddo, ti fa tenerezza, bello, vedi, se tu non vuoi che arrivi a tanti, quindi è una putinuta, tanto sono quelli che vanno a toccare e scappa, però se tu un cane proprio te ne accorgi che ti viene incontro, ti va di bene. Ma sai che ricordo sempre quello che hanno schiacciato lì, mamma mia, va. Una bella, poi piccolino, era piccolo, però una pezza poco più grande di Luna. Dice, quello sotto la ruota di una macchina, non è bello. Quindi stai imparando, lo dici, grazie a Gesù, ciò? Sì, ce l'avevo in monitor, ce l'avevo. Ma già stato lui, c'è Giuscio, brava. Lo segnale nei miei segni, quello QRM, boh. Come vai, abbizzato? Boh, sta di carina. Forse pure già magari può scendere la roba, si è inserito lo coso, uno si inabizza e fa dei gli obietti. Cosa succede? Perché lo spengo la ciabatta, quello succede, faccio lui solo, non tocca niente. Sì, anch'io sono così, c'ho la ciabatta, attacco addirittura anche la spina, quella che dove c'è attaccato tutto praticamente, ok? E dopo lì che è tutto isolato. Uguale, uguale. No, torna da pulirla, quindi non è dimenticanza, no? Fatta apposta, va? Sì. Come se sentessi che avevo punto matto, e va se l'udito lì sei imbalsamato. Però è qualcuno che mette il segnale, basta. Come lì? Non ci manca bella, dai. Perché non mi senti a me? Sì. Lo sento, perché un grano mi dà fastidio. A casa mi dà fastidio, gli arriva 9,50, è normale, no? Poi con un segnale, con diciamo una specie di cosa di innesco, però mai ti fa battimento. Ecco. Sono arrivato adesso, c'ho anche io qua, 9,50 sta arrivando, se non è pompugno. È pompugno, perché sta arrivando, sta rimessa. C'è un fischio sotto, un innesto, cioè. No, vabbè. Ma tu dirò, io sono entrato solo per vedere, per togliermi i dubbi, ma non ne dubitavo che non ero io, era impossibile, perché come fa la bambina ad attaccare senza niente, microfono e tutto quanto, non può arrivare il segnale. Ma noi abbiamo pensato che involontariamente pulendo, facendo, capito, abbiamo premuto il tasto di qualche microfono e non ti si è reso conto, pensavamo a quello. No, è impossibile già, perché ci sono troppe cose da accendere, sono tre cose da accendere, poi senza microfono devi entrare sull'accordatore per mandare la portante, no, è impossibile, infatti detto, cioè, non è possibile l'abbia fatto la bambina. Beh, ce ne scusi. Sì, no, sono appena arrivato solo per confermarvi che non ero io, però il segnale è di pompugno, è troppo forte, qua sta arrivando quasi 9,50. Allora, abbiamo, cioè, Claudio ha visto segnale, ma comunque è simile al tuo, Roberto. Infatti ha detto, Roberto, ma lui ha passato subito a pompugno, capito? Dunque, adesso per sicurezza chiama Roberto, vediamo un po'. Perché abbiamo avvisato Roberto, sa mai, no? Può capitare. Perché a Tino quante volte è capitato? L'importante è che Tino mica, chiama Tino. E il figlio così entrava in camera, sono appena arrivato, mi devo lavorare tutto quanto. Dai, proseguite, dai, ci sentiamo magari domani. Ciao ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao Roberto, buon lavoro. Ciao bella tua. Ciao Roberto, mi bugato nella. Su, ha rotto le palline, no? Che palle, ma ha messo acqua. Sì, ma ho cioè dovrebbe almeno rimanere quando tu stacchi. Ma qua non ce n'è, non si può dire, c'è un po' sono 10 proprio, non è schiacciato. Ma non sei tu nulla su 10, sai, provate a girare. Insomma, abbiamo già operato assieme e ma sono abbastanza in gamba, vai. Io abbastanza tranquillo. No, non c'è problema. Siccome sta un po'. Sta girando parecchio. C'è un giro abbastanza vasto, capito? È abbastanza vasto lui come giro, vabbè, ma diciamo che lui è già roba, cosa c'è? E mi sembra che sia 10 o 15 anni che fa questo lavoro, capito? Quindi ha un giro abbastanza ampio. Ma siccome mi è capitato di proporre una cosa, ma dal punto di vista di quello che tratto io lì al baby parking che c'è a fianco a Bricomen. Tanto solleva un po' la radio perché faccio fatica a tirarmi fuori. Basta dirle le cose, non c'è problema. Ti stavo dicendo, siccome ho proposto, cioè sono andato lì a quel baby parking che c'è a fianco a Bricomen, e ho visto che eravate spalla a spalla. Sì, lì diciamo da Roberto, lì diciamo sì, c'è qualcosa di Gianni e qualcosa di mio, diciamo lì. Ma il campo di calcio non è tuo? Sì, lì io ho il calcio Balilla, poi ho due GP, due distributori. Gianni c'ha un flipperino e un 3L, sarebbe quel distributore a tubo, quello alto. Poi l'ho visto, quello dell'Etruria, ne ha messo uno anche al Tanit. Lui c'ha anche quelle poltrone, non so quanto stiano andando, però ogni tanto io me lo facevo un massaggio in quelle poltrone. No, è perché l'ho visto stasera, ma ti ripeto, siccome lì al baby party mi stavano chiedendo appunto se potevo fargli delle serate, per delle feste, fare delle cose, noleggiargli la macchina dello zucchero filato, ho visto che eravate spalla a spalla e ho detto chissà come sono i rapporti, ma ti ripeto, lui è una persona in gamba, quindi già non ci sono problemi. No, è tranquillo, dai, è abbastanza tranquillo, no, siamo già un po', diciamo, che capita per dire che mi chiedono delle cose che non ho, chiamo a lui, piazza lui, insomma, abbiamo già formato, diciamo, una collaborazione, diciamo, reciproca, entrambi. No, è un ragazzo abbastanza romano, diciamo, è abbastanza in gamba. Tutto lì. Fanno un monopolio, no, a me è capitato qualche volta che anche se lui aveva lo stesso prodotto però mi ha fatto piazzare senza nessun problema. L'unica cosa, lui c'ha Alghero e quindi è un po' difficile entrare lì, capito? No, ma Alghero non c'ha quasi niente. Alghero ha mollato la maggior parte dell'Alghero, ha mollato quasi tutto, diciamo. Infatti ad Alghero quei punti che sono, diciamo, che sono vecchi punti che aveva lui e quant'altro, tutto lì. No, vabbè, il giro che c'ha lui, diciamo, è un giro abbastanza avanzato. Poi sono 15 anni, e tu 15 anni sulle spalle che lui opera, diciamo, su questo settore, quindi a parte l'esperienza, a parte il tutto, diciamo, però in proporzione, diciamo, è abbastanza, almeno da parte mia posso dire che abbiamo formato un rapporto abbastanza amichevole, abbastanza reciproco. No, lui tratta poi più che altro gonfiabili, cioè il monopolio dei gonfiabili, cioè anche cavalli, cosa, toro meccanico, fare piazza, però sta andando un po' male per tutti questi che hanno comunque, che trattano con i comuni, con le, perché ad esempio questo, io l'avevo conosciuto a Sorso, il Sorso quest'anno non ha fatto niente, ma niente, se non un paio di appuntamenti così, ma proprio sottotono al massimo. Claudio Spalviero, riprendi. Non c'è che un'altra ascoltare un po' sulla telefonata. E poi anche ascoltare un po', ma sto pensando che ho avuto tanto quanto ho fatto il fine d'ora di disturbare prima su 10 e poi su 12. No. Antonio. Ciao, dimmi. Si è passato lì a quel baby party che c'è dove c'è l'Eurospin, dove sono le poste. Baby parking, dove c'è, ma tu stai dicendo, c'è un nome particolare, adesso non me lo ricordo. Ricordamelo. Ho capito dove stai dicendo, prima di arrivare a dove c'era Gifada. Bravo, esatto, sotto c'era Gifada, che adesso non c'è più Gifada lì, di fronte all'Eurospin di Mura, sopra, proprio sulla via principale, dove ci sono le poste, sopra lì. C'è un baby party lì, c'è un baby party. È aperto un paio di mesi. Ho capito, ho capito. Anche lui c'era da un po' di tempo. Ma perché ci sei anche lì, Osa? Non ti ho capito. Sei anche lì? Cioè hai rapporti anche con questo? Sì, sì, sì, sì. Anche con quello, capito? Anche con quello. Ma ti posso dire che lì a Sosso, vabbè, a Sosso ha chiuso, era aperto e ha chiuso. Sta andando benino a Sennori, dove c'ho qualcosa io, diciamo, e così via. Cappa, ma ascolta, invece a Santa Maria, chi è che oltre a te che c'è? Santa Maria, ma come te? Cappa. Non c'è nessuno. No, e tutte quelle gru che ci sono dentro? Quella gru gigantesca? Cappa. Quella l'ho piazzata io. Complimenti. Ma cosa paghi i ricci per quella lì? Cazzo parlo lì. Cazzo. Sono viaggiato, no? Cazzo, mi sazzini cristiani a Trento. Ma nel capo ci sono un po' pazzi che sono dei manichini. Ma cosa c'è cosa già? Diciamo che è una gru peluche, ma è gigantesca, è grossa, di diametro sarà, forse il frontale sarà un 5 metri per 3, se non ricordo male. E infatti è sponsorizzata Cermelli. 5 metri di larghezza, tutti i metri di fronte a lei, vedi, di fronte la larghezza 5 metri, con 3 metri di profondità. Lo sa, ma infatti ti stavo dicendo, deve essere sponsorizzata Cermelli. Ma piglia pupazzi. Ma tu la devi vedere quanto è grande, ho detto, boh, un monolocale sembra. un monolocale, via. No, vabbè, cazzo, non rendi conto che quando è arrivata quella lì, logicamente è arrivata tutta imballata, tutta imballata, logicamente ci è voluta la gru per scaricarla. Sai quanto pesa quella lì? Me lo immagino, almeno 500 kg. Ehi, ne pesa di più di 500. Ma io ti sto dicendo, il giorno che cade la legge Merlin, che era la legge per le case chiuse, lì ci mettiamo le donne, e poi con la gru vai e te ne impegni una. Sì, lo voglio. Ma come cazzo si sa? Cos'è questa cosa? Una cosa per giocare? Allora, è una gru peluche, è una gru, una macchina dove c'è la pinza, dove dentro ci sono i peluche, è visto lì a Città Mercato, di fronte alle casse, ma però è molto più piccola, quella che è Città Mercato, dentro a quella lì che è Forte Santa Maria, ci sta 10 volte. Capito, quindi c'è più funzioni per giocare, no? C'è di queste console? No, la console è un joystick unico, è uno solo. Tanto che la favorito del materiale è molto più maggiore. Ho capito, dai. La classica macchinetta col gancio, con la pinta, che deve avere in vuota le giostre. Provi che manna. Ma cosa c'è? Il seggiolino, ti siedi, tu dentro, non funziona. Cazzo Claudio, no, tu sei fuori strada qua, hai compreso, pure io ero pensato, ma sai che c'è la gru, fossi bulboso, ma c'è compreso, adesso di chi devi fare le giostre, tipo le giostre, però questa cosa deve essere molto più grande, dove tu rimani in piedi, metti i soldi e dopo c'è il tappo per andare avanti e per resto. lo fa da, a destra e a sinistra. E dopo quello con lo schiaccio scende, e quello che prende, dopo scende, se riesce a prendere, ti prende il prodotto dove tu hai mirato la gru. Ma cosa, come si chiama? Quei semovibili invece, tipo gli aerei, cosa c'è? Sono sempre tuoi. Sì, ho tutto posizionato io lì, ho tutto posizionato io. Barroggia, dai. Sì, bel posto, ma te invece quella specie di cagata che c'è al piano di su, dove ci sono quei quattro pupazzi che suonano gli strumenti? No, quella è quella roba. Hai capito, bla. Quella è... Favoreto. No, quello lì, vabbè, è una pupazzata, l'ho visto, fa ridere più che altro. Tu a me pensi che io chiesi uno che non mi sono mai entrato, mi sono entrato solo quasi più che andare nei costruendi che facciamo di qua, che chiedi. Tu immaginaci a Sandrino. Ah, no, è grande, è immenso, soltanto che ci sarebbe molta più roba, più organizzato e quant'altro, solo che, cioè, vogliono lasciarlo così, non vogliono incrementare, lasciare giusto così, capito, senza stare lì a massare e a mettere tanta roba. Tu che hai rapporti con lei? Con lei chi? Con la direttrice. No. Direttamente con quello che ti ho dato, come si chiama, con lui? No, Correna. Correna. Non era quella persona che ti ho segnalato? No, lui è un coordinatore. No, boh. Aspetta. Scusa, non è lui che... E lei sotto, e poi lui sopra. Sì, ho capito, c'è lei, c'è la direttrice, io lo so, però lei è giusto come una direttrice, come un visore, diciamo, del market, capito? Poi il resto, gallerie, tutto quanto, è Ireneo. Che c'è Ireneo? Ah, tanta voce. Dai, Ireneo, chi è Ireneo, chi è? Guarda. Ho capito. Ma cioè Frutta ha detto di andare da lui. Cosa? Fru. Ti ha agganciato a lui. Lui è il direttore. Vi saluto, ve lo portare il signorino a fargli fare la passeggiatina. proseguo e ce la risentiamo. Via, ok, salve, buonanotte. Buon tutto, ci sentiamo domani. Avanti Claudio. Ciao Sam, ciao, buonanotte. Avanti. Via, ciao Sam. Buon 144, buona passeggiata, dai. Ci sentiamo alle prossime. Cla, non si è acceso. Non ci sta andando, un'altra frequenza, non so. Al monitor. Oggi è l'ultimo giorno del Papa, era? Oggi era l'ultimo giorno del Papa. Allora, oggi ho cenato tardi. sono innamorato. Ma come ti vedi, Lucio? Ma tu pure trovi che sono... ci sono di qualche cosa, ve la resta uno sicuramente ve la resta di felicità, no? Sicuramente avrà rimane tutto in stand by, subito alle prossime lezioni, capito? Fai, non c'è problema. Ah, va.